Marco, Neuro Green Party, cosa sta succedendo qua stasera? Ma direi che, il posto ci sta decisamente dentro, la gente sta arrivando. No, abbiamo fatto un buon lavoro, secondo me, per l'allestimento ci siamo spesi bene. Abbiamo fatto anche discretamente il culo. È una festa schizofrenica, ci sono i pinchi, i catastrofisti, l'ambiente dark, l'atteggiamento invece gioioso, creativo, allegro. Com'è questo misto di concezioni e di pratiche all'interno di Neurogreen? Ma ci piace essere eclettici, forse, non so, per dire, stasera abbiamo fatto tre stanze diverse che più o meno sono sia come toni, luci, decorazione, allestimento, sia come destinazione poi d'uso, sono molto diverse, nel senso il bar che ha un'illuminazione scarsa, un'atmosfera con lumini e candele, la sala della musica che invece ha più forti volumi, e poi una sala con infoshop ben illuminata in fondo. Se andiamo a visitare anche gli altri spazi di questa festa Neurogreen 22 gennaio a Torino.